ottennero l'indipendenza dell'Inghilterra. Prima subirono la prepotenza del regno oppressivo, si liberarono, dopodiché furono loro ad opprimere. Questo è un meccanismo forse anche psicologico che sarebbe interessante studiare, non è ovviamente nei miei strumenti, nelle mie possibilità farlo. La seconda parte della nostra chiacchierata parliamo invece di cose presenti, ma per concludere questa prima parte vorrei citare questa piccola storia che tu racconti come testimonianza italiana di questo personaggio che si chiama Giovanni Martini, che poi diventa rapidamente John Martin, no? Testimone italiano inconsapevole o forse poco consapevole della tragedia di Little Bighorn, del generale Custer e quant'altro. Del Custer decantato, che era in realtà un ambizioso, spregiudicato e anche discretamente assassino. Lui era stato battezzato dagli indiani, adesso non ricordo esattamente, ma colui che attacca l'alba, certo, per pigliare il villaggio assonnato e poi andava a colpire questi accampamenti di poveri nomadi composti soprattutto di donne e bambini. E aveva un trombettiere italiano che poi ha salvato la Giovanni la Martini, ghirba, come si dice. Fu l'unico sopravvissuto della battaglia di Little Bighorn. L'ho trovato curioso, pochi lo sanno, non c'entra molto con i significati della storia, ma così sono anche quelle curiosità che incentivano a forse inconsapevolmente ha dato una lettura, come dire, meno, no, meno dogmatica a quel momento di grande desiderio espansionista, sì, di cui Custer era l'incarnazione. Bene, ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo a parlare con il nostro ospite Ennio Remondino del libro che ha appena mandato in libreria, che si intitola Niente di vero sul fronte occidentale, da Homero Bush, la verità sulle bugie di guerra. Stiamo parlando di verità e bugie e, come vedrete nella seconda parte, anche e soprattutto informazione e giornalismo. Il libro è edito da Rubettino. All through the year we waited through spring and fall, to hear silver bells ringing, see winter time bringing the happiest season of all. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey that's a mistletoe help to make the season bright. Tiny little tots with their eyes all aglow, you'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way, he's loaded lots of toys on his sleigh, child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Thank you. so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Nel giornalismo attuale, ogni tromba che chiama l'assalto vuole un suo trombettiere. Allargando il campo al servilismo militante, possiamo aggiungere che ogni lottizzatore ha bisogno di un lottizzabile. La questione se sia la guerra a corrompere l'informazione o se viceversa sia l'informazione satura di volontari trombettieri a dare il peggio di sé, somiglia all'eterno litigio sul primato fra uovo e gallina. È come discutere se sia la prostituzione ad aumentare gli utenti del sesso a pagamento o la domanda di peccato ad aumentare l'offerta. Si tratta sempre di puttane e puttanieri. Allora, torniamo in trasmissione con Ennio Remondino, nostro ospite oggi, per fare una breve conversazione su questo libro che ha pubblicato di recente, Niente di vero sul fronte occidentale, da Omero a Bush, la verità sulle bugie di guerra, edito da Rubbettino. Nella prima parte abbiamo guardato un po' all'indietro, come ha fatto Ennio nel suo libro, andando a vedere che i vizi non sono solo del contemporaneo, della modernità, ma insomma che l'essere umano si comporta secondo certe logiche già da un bel pezzo. Però poi, come avete appena ascoltato nella breve lettura che vi abbiamo presentato, c'è un atto d'accusa ben preciso, intenso, direi anche piuttosto intransigente nei confronti del presente e nei confronti anche della professione, Ennio. Ahimè sì, credo che noi giornalisti abbiamo molto da interrogarci, molto da rimproverarci, un atto di coscienza. Ovviamente noi siamo parte di un piccola parte di un grande meccanismo che è quello editoriale oggi, che è un settore in crisi, lo sappiamo, lo sa forse anche l'ascoltatore, e però ci assumiamo delle belle responsabilità, perché appunto l'interrogativo è la lottizzazione esiste perché ci sono i lottizzatori o perché ci sono della gente disposta a farsi lottizzare? L'uovo, la gallina. Diventa anche un mestiere, come dire, scomodissimo dal punto di vista, parecchio scomodo dal punto di vista della coscienza, quello del giornalista, per esempio, televisivo, tanto per stare dalle nostre parti, allorché suppongo, come può essere capitato a te, immagino diverse volte, chieda, pretenda, supplichi spazi per una informazione di cui magari è testimone in prima persona perché è lì, e dalla centrale di potere a cui fa riferimento si sente rispondere no, con un certo disinteresse, un certo distacco. Tu fai un appello, una precisa indicazione nei confronti delle guerre dimenticate, che sono in realtà una vera tragedia del contemporaneo. Si muore in cifre straordinarie, qualcuno vede, difficilmente riesce a raccontare, o se lo fa riesce a incidere assai poco. Dimmi qualcosa riguardo. Guarda, io temo che stiamo precipitando l'insieme del giornalismo italiano in particolare e verso un giornalismo provinciale chiuso in casa sua e anche molto servile. Se l'informazione è intesa come vendita d'ascolto, per cui devi condire la parte politica con il delitto perché tira, e il fondamento è la parte di compiacenza politica, quindi l'informazione delle condizioni interne, dove però la realtà italiana è Palazzo Chigi, Montecitorio e qualche esponente politico, il passaggio dei Santini lo chiamo io, ovviamente avrei anche racconto della vita del mondo sempre attraverso la logica del palazzo, quindi New York, quindi qualche volta Bruxelles e il resto zitti. La Rai investe in 15 sedi estere, ha reporter bravi in Africa, in Sud America, in Cina, in India, e raramente mi capita di vederli, raramente capita che io torni sulla scena. Ovviamente poi c'è l'evento, c'è la guerra nei Balcani, allora va bene, sei a Belgrado, sei l'unico che c'è,